Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Subito alcune rituali informazioni di servizio. La prima riguarda il nostro sito radio24.it. Lo avrete sentito magari allo sfinimento. Sotto il mio profilo troverete anche il mio blog Guardie o Ladri. Lo trovate anche attraverso l'home page del Sole 24 Ore, quotidiano nel quale ormai sapete anche questo, sono inviato. La seconda informazione di servizio è quella che riguarda invece la nostra posta elettronica, vale a dire un abuso al giorno @radio24.it. Posta elettronica che è stata raggiunta recentemente da un nostro radioascoltatore che si chiama Bruno Costa, il quale fa presente, devo dire in maniera molto educata e anche al tempo stesso però molto dettagliata, fa presente una noia, chiamiamola così intanto, poi vedremo di che cosa si tratta, che, come dire, si scatena quando un cliente, un consumatore, un utente ha a che fare con le compagnie telefoniche e società che vendono servizi, diciamo così, collegati alle compagnie telefoniche. Avrete già capito quindi che si tratta di queste suonerie per cellulari, ce ne sono di tutti i tipi e le pubblicizzano moltissime imprese. Allora, per raccontare questa storia abbiamo chiamato direttamente il nostro radioascoltatore e poi abbiamo chiamato, lo vedrete, lo scoprirete durante queste due puntate, perché ho deciso di dedicare al tema due puntate visto che interessa migliaia, forse milioni di italiani questo tema. Sentirete appunto nel corso di queste due puntate intervenire anche gli interlocutori che sono stati chiamati in causa. Intanto io do il buongiorno al radioascoltatore Bruno Costa. Buongiorno. Allora, la sua lettera io la sintetizzo nell'inizio. Lei dice: io mi trovavo a navigare su internet e quindi qui può esserci stata anche una mia disattenzione navigando su web. Posso essere stato incredibilmente disattento. Fatto sta che in maniera più o meno disattenta io mi sono abbonato ad un servizio di fornitura di suonerie per cellulari, così chiamato Dindo. E da allora cominciano i suoi guai. Può descriverceli, Costa? Ma diciamo che i miei guai sono cominciati nell'avere così qualche messaggio SMS in più di quelli normali che arrivano da TIM sul mio cellulare, per cui più volte rispetto a quelle già normali avveniva questo fatto, e questo già porta dei problemi. Però il discorso poi che è durato qualche settimana, parecchie settimane esattamente, non lo so, almeno 4-5 settimane, ha portato al prosciugamento del credito sul mio del mio cellulare. Allora io direi di fermarci intanto un secondo qui, cioè prosciugamento del credito sul suo cellulare. Quello che le vorrei chiedere: ma questo tipo di SMS erano riconoscibili? Cioè lei capiva di che cosa si trattava? Assolutamente no, io pensavo fossero della TIM. Qualcuno di questi SMS era non etichettato come non visualizzabile. Ho capito. Altri avevano dei caratteri come note musicali ed altro. Lei li cancellava senza aprirli? Esattamente, senza aprirli li cancellava. Benissimo, lei li cancellava senza aprirli. Fatto sta che comunque lei dice: vabbè, sarà successo quel che sarà successo, ricarico la scheda, la carica del mio cellulare. No, prima di... mentre mi stava... Diciamo, a un certo punto TIM mi manda un messaggio, un SMS, e mi dice: guarda che il tuo credito sta finendo. Appunto, quindi lei ricarica la... No, ricarico, aspetto un giorno poi a ricaricare, perché di fatto, siccome io pensavo di avere ancora almeno una trentina di euro, la cosa mi sembrava strana. Quindi immediatamente faccio il numero del credito residuo e questo numero mi dice che non stava finendo, ma era addirittura azzerato. Ed era successo a seguito di un SMS inviato, e di fatto poi, se vuole glielo dico subito, non era assolutamente inviato ma era ricevuto, non era azzerato ma era addirittura in negativo. E in negativo, tanto sta che adesso a questo punto sintetizzo io il resto della lettera. Lei fa una ricarica e addirittura va in debito, perché effettivamente nella nuova ricarica la TIM le toglie le scala, per così dire, quello che doveva appunto la TIM, e le rimane pochissimo, ne rimane proprio €1,95, insomma. No, cioè mi toglie, diciamo, io faccio una ricarica di 20 euro, a quel punto lì mi trovo che sono quasi 2 euro appunto in meno rispetto a quello che io appunto mi aspettavo. Benissimo. Che erano il residuo della ricarica, sulla ricarica precedente. Esattamente, è ciò che ho detto. Allora, a questo punto, questa situazione qui sarà capitata, credo, probabilmente a decine di migliaia di persone. A me personalmente, ad esempio, è successo con mio figlio, quindi mi sono trovato nella stessa identica situazione. A questo punto la Soneria Dindo fa capo ad una impresa che si chiama Neo Mobile SPA, e noi abbiamo il piacere di avere l'amministratore delegato Gianluca D'Agostino con noi in linea. Buongiorno D'Agostino. Buongiorno. Allora, io direi partiamo da una presa di d'atto, vale a dire, bah, forse probabilmente mi sarò avventurato su internet, non me ne sono accorto, ma facciamo pure che io mi sia abbonato a questo servizio di soneria, però poi a quel punto io ricevo queste sonerie senza saperne assolutamente nulla, ma senza neppure poter visualizzarle, capire che cosa me le manda e perché. A lei, come dire, tra virgolette, la difesa di fronte a questa accusa. Allora, noi abbiamo sì, centinaia di migliaia di clienti, consumatori attivi ai nostri servizi in Italia, e poi siamo una società attiva in 14 paesi nel mondo, ma ciò non di meno possiamo ricostruire per ogni singolo consumatore il suo percorso, diciamo, all'interno del nostro servizio. Quindi una volta che ci è stato comunicato il telefono abbiamo ricostruito il percorso. E qual è stato questo percorso? È stato appunto che il cliente, navigando su una pagina del nostro sito dindo.it, ha trovato una pagina in cui c'erano una serie di sonerie che si potevano scegliere, c'erano chiaramente tutte le spiegazioni, vi leggo come era scritto sulla pagina: non perdere questa occasione, abbonati a Dindo Parade, rispondi esattamente a queste domande, scegli la soneria e ti abboni al servizio, servizio in abbonamento continua. E da quel momento lei dice... Quando il flusso preciso è importante, sì, secondo certo, me. Certo, quindi inserisce certo il numero di telefono, si seleziona l'operatore, e a questo punto cosa succede? C'è una seconda pagina in cui va inserito un codice che arriva sul telefono del consumatore. Quindi il consumatore riceve sul suo telefono un messaggino che dice: se vuoi abbonarti a questo servizio e ricevere sonerie, eccetera, inserisci questo codice nella pagina web che ti si è presentata sul tuo PC. Il consumatore inserisce questo codice, ulteriore conferma con tutta una serie chiaramente di dati a contorno. A scalare. Comunque, D'Agostino, è chiaro, lei dice non può essersi sbagliato. Ecco. Benissimo. Piuttosto consapevole. D'Agostino, sintetizzo perché altrimenti non finiamo mai. Lei dice il radioascoltatore, il cliente, non poteva non sapere quello che stava facendo, perché prima schermata, seconda schermata, dati inseriti, insomma, caro Costa, lei di che cosa si lamenta? D'Agostino ha... La cosa è completamente folle, mai visto e considerato una cosa di questo genere. A me delle suonerie non me ne fregava un accidente di niente, poi comunque se l'avessi fatto avrei pagato e fatto, cioè, non capisco questa, è una cosa incredibile. Quello qui che ho sentito, è perché non so se a qualcun altro è successo, a me non è successo assolutamente così, ed è una cosa esattamente incredibilmente incredibile. Ok, allora lei dice: io non ho visto niente, non mi sono apparse schermate, niente, non ho messo codici. D'Agostino, la sua parola contro quella di Costa. No, poi le dice: incredibile, il consumatore che cita esattamente la parola che c'era sulla nostra pagina, che diceva non perdere questa incredibile occasione. Senta, però, no, D'Agostino, non giochiamo con le parole, per piacere. Incredibile è una parola italiana, così come lo è computer, tavolo e tante altre. Allora, la sua parola contro quella di Costa. Costa dice: io non ho mai visto alcuna schermata. Lei che cosa replica? D'Agostino? Io davanti agli occhi, perché poi nei nostri sistemi noi memorizziamo tutto il percorso completamente del consumatore, perché lo memorizziamo a fruizione del nostro customer service, a fruizione del customer service degli operatori mobili. Vabbè, che possono accedere chiaramente. Quindi a lei dice: insomma, noi abbiamo questo percorso, tutto... ma lei lo può mettere a disposizione questo percorso? Benissimo. Ma poi non solo, nel corso delle visite accessive arriva anche un messaggino, chiamiamo un messaggio di ricordo, che ricorda al consumatore, una volta ogni 3-4 settimane, sei abbonato al servizio Dindo, se vuoi disattivare attivarti, chiama questo numero. Benissimo. E ricordati, eccetera, eccetera. Allora, io direi di fermarci qui, prima di ritornare domani su questo punto. Costa, lei ha ricevuto mai un SMS? Vuoi abbonarti? No, vuoi disdire? No, forse quelli non visualizzabili. Forse quelli non visualizzabili. Non so, forse benissimo. Tutto lì il mistero, benissimo. Guarda. Allora, siccome la cosa è veramente molto interessante, riguarda, l'avevo già detto in apertura, milioni di persone, perché gli italiani abbonati alle compagnie telefoniche sono milioni, siamo forse il paese con il maggior numero di telefonini in Europa e tra i primi al mondo. Ci fermiamo qui, domani torniamo con chi? Con i nostri ospiti odierni, con Tim e con un esperto di altro consumo. Roberto Calullo ringrazia in regia Valerio Rocchetti, in studio Antonella Migliaccio, Valeria Coffaro, e vi dà appuntamento a domani.